La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:31 primi qui dagli studi di Milano della Radio. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia. E oggi parleremo, su vostra richiesta, molti di voi hanno detto: possiamo un secondo avere un approfondimento su Deutsche Bank? Alcuni stamattina hanno chiesto: è vero o non è vero? Bisogna credere o non bisogna credere alle voci secondo le quali nel weekend c'è un intervento d'emergenza su Deutsche Bank, magari approfittando anche del fatto che poi lunedì dovrebbe essere chiusa per festività la borsa tedesca? Però molta curiosità e anche molto timore per le conseguenze. E allora tentiamo di spiegare, anche un po' per non addetti ai lavori, che cosa sta capitando su Deutsche Bank e che cosa può voler dire, no? Quello che sta capitando. Intanto però, prima di un minuto di introduzione e poi andare ai nostri ospiti, continuo a dirvi: scriveteci a versione di Oscar @radio24.it in relazione a eventuali mutamenti della vostra condizione di costi fissi su i conti bancari, soprattutto se questa mutazione avviene in questi ultimi mesi, nell'ultimo trimestre, senza esplicitare in maniera chiara a che cosa si debba. E soprattutto poi ancora ulteriormente, se questo avviene da parte di banche, le vostre banche in cui avete i clienti, in cui vi comunicano che si deve al recupero, alla necessità di recuperare le quote che le banche sono costrette a pagare, ciascuno per quota parte alla propria quota di mercato, al finanziamento del fondo di risoluzione per le altre banche. Ne abbiamo parlato sempre in questi giorni. Ieri la Banca d'Italia ci ha detto che sta monitorando ed è una prima risposta che abbiamo ottenuto. Domani ne riparleremo a Conti della Belva. Parecchi di voi intanto hanno iniziato a scriverci, continuate a farlo perché naturalmente ci aiutate nel segnalare i problemi di illegittimità sia dei doveri di trasparenza nei vostri confronti, perché deve esservi chiesto in maniera tale da, se non siete d'accordo, entro due mesi poter recedere dal conto senza oneri, sia perché c'è un problema, a nostro giudizio, ve lo abbiamo spiegato, di legittimità sulla richiesta di rivalersi sui correntisti da parte di banche sane per compartecipare alla risoluzione invece di banche avviate alla risoluzione. Direttiva alla mano e atto istitutivo, decreto istitutivo del fondo di risoluzione, noi siamo dell'idea che ci siano problemi di legittimità, quindi lo facciamo per voi. Andiamo un secondo alla questione Deutsche Bank. Intanto una notizia, perché dalle 16 in poi in borsa in Germania il titolo era tornato ad avere un sia pur modestissimo segno più, ma questa mattina c'era stato un picco dei credit default swaps di Deutsche Bank, che erano arrivati a superare addirittura 500 punti base. Tanto per avere un'idea, in tutto il 2015 quelli di Deutsche Bank non avevano mai superato 100 punti base. Nel 2016, a seguito di quello che avviene nel corso di quest'estate, avevano sfondato la linea di 250 punti base. Stamattina c'è stata un'impennata clamorosa. Allora, in sintesi estremissima, tentiamo di capirci. Deutsche Bank non è solo una banca che ha rilievo sistemico europeo come la nostra UniCredit. È tra le grandi banche europee la grandissima, cioè a livello sistemico mondiale. Perché a livello sistemico mondiale? Perché non è... Il suo modello non è quello di una banca commerciale con molti asset a rischio, su cui rischia di avere molti crediti deteriorati. Il problema delle banche italiane, che porta, quando si hanno molti crediti deteriorati, da noi sono il 18% degli impieghi oramai, ad avere un problema di ricapitalizzazione, perché bisogna rafforzare il capitale della banca. La caratteristica di Deutsche Bank è di essere una grande banca soprattutto di investimento mondiale, e che quindi ha un problema potenziale di altro genere. Qual è il problema potenziale di altro genere? Avrete letto forse su molti giornali italiani in queste settimane richiamare il totale dei nozionali dei derivati che hanno in pancia, e naturalmente è una cifra spaventosa di fronte alla quale tutti puntano il dito, perché è un multiplo del PIL europeo, insomma, trilioni di euro. il problema non è mai il totale del nozionale dei derivati, ma il rischio di esposizione sui derivati è quello che si fa nettando le partite incrociate dei sottostanti rispetto alle scommesse. La banca, Deutsche Bank, a metà di quest'anno dichiarava che in realtà il rischio di esposizione netta rispetto a quei trilioni di euro dei derivati è di poco superiore ai 40 miliardi cifra naturalmente molto rilevante. Ma qual è il rischio vero quando si ha un tipo di asset molto caratterizzati, si chiamano asset di tipo 3 in gergo tecnico di questo tipo? Il rischio vero è non sul capitale ma sulla liquidità. Perché? Perché se i clienti, i fondi di investimento, clienti istituzionali eccetera eccetera, che utilizzano questa banca per far gestire le proprie scommesse finanziarie strutturate, iniziano a perdere fiducia nella banca e iniziano a uscire rapidamente, si può determinare un meccanismo molto rischioso di sfasamento temporale. Perché? Lo sfasamento temporale implica che per consentire il rientro dei margini di questi clienti istituzionali, la banca deve, se ha un netto negativo, mettere mano alla liquidità e liquidarle subito queste posizioni, immediatamente, perché se non le liquida subito nel mercato inizia ad apparire in fortissima tensione di liquidità. Però c'è una differenza temporale tra questa sua attività di liquidazione subito di chi esce, per ammontare che possono essere anche molto rilevanti, rispetto al fatto che poi l'attività repo, su cui recuperare liquidità a tempi più lunghi. Quando si determina una tensione di questo tipo, quando addirittura si entra in una fase di perdita radicalmente verticale della fiducia, ecco che a quel punto il meccanismo temporale diventa così sfasato che non conta tanto il netto dei derivati che ha in pancia, ma conta il fatto che puoi entrare in una crisi assoluta di liquidità per provvedere alla liquidazione dei clienti che vogliono uscire. Questo è il grande rischio potenziale di Deutsche Bank. Deutsche Bank è un modello di banca di questo tipo e si vede dalla sua leva finanziaria, perché la leva finanziaria di Deutsche Bank è superiore a quella di Lehman Brothers, che 8 anni fa, proprio in settembre di 8 anni fa, fece esplodere la crisi, e che aveva un problema in realtà paragonabile per il suo tipo di attività, no? Era una banca di investimento, non una banca commerciale. E la leva finanziaria, cioè il totale degli asset rispetto all'equity della banca, è superiore a 40 volte in Deutsche Bank, mentre quella di Lehman era di 30 volte. Però da una parte Deutsche Bank dichiara una consistenza di liquidità molto rilevante, cioè nell'ultima trimestrale diceva addirittura la stimava in superiore ai 200 miliardi. Però crisi di fiducia ci sono, perché sono avvenute due cose di ordine diverso che hanno iniziato a far trillare campane d'allarme. La prima è quella che è venuta pochi giorni fa, quando il Dipartimento di Giustizia federale americano ha formalizzato una richiesta di sanzione nei confronti di Deutsche Bank molto molto elevata, cioè 14 miliardi di dollari per fronteggiare claims e contenzioso su come Deutsche Bank gestì i mortgage, cioè i mutui che portarono all'esplosione della crisi del 2008 americano. Tenete conto che Deutsche Bank negli anni alle nostre spalle, nel post 2008, ha già regolato partite per diversi miliardi di dollari in relazione a questo tipo di responsabilità direttamente con banche americane e così via. Ma adesso questa mega multa può aprire, di fronte alla quale Deutsche Bank dice no, ma questa è la richiesta, ne pagheremo molto meno, non esiste pagare 14 miliardi, però intanto questa prima richiesta apre un potenziale buco, questo sì, nel capitale della banca, perché bisognerebbe ricostituirlo. E infatti Deutsche Bank ha iniziato questa settimana a vendere al volo, anzi a svendere alcuni suoi asset, tanto è vero che ha svenduto, mettendo praticamente nei suoi libri una perdita in termini di capitale, ma una assicurazione che avevo comprato in Gran Bretagna l'ha venduta praticamente a un prezzo attualizzato inferiore a quello a cui l'aveva comprata anni fa, e questo per iniziare a lavorare al potenziamento del suo CET1, quindi del suo indicatore del capitale. Ha altre cose da vendere, ovviamente, Postbank in Germania, oppure quote in banche straniere e soprattutto in Tsinghua, una banca cinese. Ma a questo primo allarme, ripeto, sul capitale di Deutsche Bank, si è 48 ore fa aggiunto un allarme, tra virgolette, più serio, perché riguarda proprio il rischio da cui sono partito in questa micro spiegazione tecnica. Perché la notizia che è uscita l'altro ieri, che quindi ieri si è prodotto un'esplosione al ribasso sul mercato, è stata quella dell'uscita dei primi hedge fund americani che hanno chiesto di ridurre i termini, i margini, perdonate, delle loro attività fatte attraverso Deutsche Bank. E quindi il rischio, se questa decisione si estende ai circa 800 clienti istituzionali che sono i maggiori nel portafoglio degli asset di tipo 3 di Deutsche Bank, se si dovesse estendere, ecco che lì si crea un problema anche immediato in termini temporali di liquidità. E allora si pone il problema che voi ascoltatori ci avete chiesto: ma siamo a un punto in cui la Germania, a cui dobbiamo la direttiva BRRD, il burden sharing, il no agli aiuti di Stato nelle banche, eccetera, eccetera, si prepara lei a un intervento di questo tipo in Deutsche Bank? Può farlo in maniera diversa, può farlo con la CDP tedesca, KfW, ma insomma lo fa davvero. Il governo tedesco in questa settimana non ha fatto altro che ripetere no, no e no, e l'amministratore delegato di Deutsche Bank ha a propria volta detto non esiste, si chiama Cryan, non esiste proprio questa possibilità, non c'è affatto un rischio, ovviamente lui fa il suo mestiere. Spero di essere stato abbastanza sintetico e chiaro nel delinearvi la condizione attuale. Inutile dire, e concludo, che il più dell'opinione pubblica informata di questi giornali italiani, eccetera, eccetera, guardano a tutto questo con un po' di soddisfazione. Io non la condivido, cioè quello che in tedesco si chiama la Schadenfreude, il godere ai guai degli altri. Dice: ma come, sono stati così rigorosi con noi? Ancora stamattina trovate un'intervista del governatore della Banca d'Italia che dice: bisogna consentirci i salvataggi delle banche con gli aiuti di Stato, e adesso hanno il problema a casa loro. Allora partiamo da questa prima domanda: c'è davvero in questo fine settimana il rischio di un intervento straordinario su Deutsche Bank? Tonia Mastrobuoni, la nostra prima ospite, corrispondente di Repubblica da Berlino, e che ringrazio di essere con noi. Tonia, tu che dici? Ma questa è la domanda appunto più bruciante. Come dicevi tu, loro smentiscono. Stamattina ho parlato anche con la Bundesbank, che continua a smentire, continua a dire che comunque se la può cavare continuando a vendere asset. Tu l'hai detto poco fa, appunto, la vendita di asset risolve solo un corno del problema in questo momento. Però ecco, sono abbottonatissimi, ma ci stanno sicuramente lavorando. Ricorderete che quest'estate era emersa l'ipotesi già di una fusione Deutsche Bank Commerzbank. Commerzbank è al 15% è posseduta dallo Stato, dal governo, esattamente. E che ieri ha annunciato un bel po' di eccesso di personale da smaltire, tra l'altro. Esattamente, però insomma l'evoluzione in qualche modo fa paura, perché ricorderete, o tu sicuramente ricorderai che sei un grande esperto, che l'altro anno si parlava addirittura del fatto che il Commerzbank potesse riconquistare quel 15%, potesse in qualche modo rinunciare a questa quota pubblica. Invece siamo anche lì in una situazione sempre più precaria, insomma. Le ipotesi che si fanno qui sono varie. L'ipotesi di un ingresso diretto nel capitale da parte dello Stato è l'ipotesi che Angela Merkel sta cercando in tutti i modi di evitare, per un semplice motivo. La Germania ha già salvato con 240, una cifra che torna sempre sui giornali italiani, con questi famosi quasi 240 miliardi le proprie banche. E il bail-in, questa regola appunto, è entrata in vigore a gennaio di quest'anno, doveva essere esattamente la risposta a questa promessa, no? Cioè, la Germania ha detto ai propri contribuenti: voi non dovrete mai più pagare il salvataggio per il salvataggio di una banca. Una promessa, una buona regola, secondo me una buona legge per le banche, però approvata nel momento sbagliato, nel momento in cui le banche europee sono ancora piene di debiti e zeppe di problemi. Per cui Adesso il grande paradosso, il grande problema per i tedeschi è appunto che cosa facciamo con Deutsche Bank, cosa facciamo soprattutto per non contraddire il bail-in, per non contraddire la promessa anche di Angela Merkel di non far intervenire mai più i contribuenti tedeschi. Ci sono delle ipotesi, come dicevo, le tre ipotesi maggiori sono quelle di un ingresso di capitale diretto da parte dello Stato, che è quella più, come dire, meno preferita sicuramente da Merkel e dallo stesso Ford. La seconda era quella emersa quest'estate, poi congelata, ma solamente congelata, quella di una fusione tra le prime due banche tedesche, Commerz e Deutsche, e la terza è quella che mi hanno raccontato ieri, è questa di una sostanziale di un intervento della terza banca tedesca, che è una banca pubblica che si chiama KfW, che è la Cassa Depositi e Prestiti, sì, tedesca, che potrebbe aiutare la Deutsche Bank a liberarsi di questi asset. Queste sono le ipotesi che ci sono al momento dietro le quinte, si lavora appunto alla tremenda una soluzione che possa in qualche modo essere dal punto di vista politico il meno doloroso possibile, però ripeto, stamattina ancora fonti della Bundeswehr mi dicevano, ma insomma, al di là di questi episodi degli hedge fund, la banca è solida, lo hai ricordato anche tu, ha 220 miliardi di liquidità ancora negli stessi bilanci della Deutsche Bank, loro si comportano come se, no, ufficialmente come se fosse, come dire, una buriana, passata la buriana, ma in realtà, come hai detto giustamente tu, il problema è molto più profondo, perché se si cominciano a ritirare gli hedge fund, lo schema è più o meno quello, se non ricordo mai, di Lehman Brothers. Lo hai ricordato anche tu, Lehman Brothers aveva una situazione meno solida di quanto non l'abbia oggi Deutsche Bank, del capitale, anche della liquidità, eccetera. Però il meccanismo è questo, e quello che fa paura in queste ore è proprio questa perdita di fiducia. Cioè, questa è la cosa che colpisce, perché è vero che il contenzioso deve ancora, no, arrivare, come dire, a una conclusione. 14 miliardi Deutsche Bank anche questo non pagherà mai. Ma in questo momento non è il problema il contenzioso, in questo momento il problema è questa perdita di fiducia e questa speculazione, perché un altro elemento di queste ore è naturalmente che c'è un fortissimo shorting sul titolo di Deutsche Bank. Posso dirti una cosa? Io scommetto che gli stessi hedge che hanno preso questa decisione e l'hanno fatta traspirare i mercati hanno shortato prima, ci stanno guadagnando, perché ognuno poi fa il suo mestiere, adesso lo dico sorridendo, ma è così, i mercati sono... Posso dire un'altra cosa, un'ultima cosa, perché io sono perfettamente d'accordo con te, Oscar, cioè io l'ho anche scritto ieri su Repubblica, questa Schadenfreude italiana è totalmente sciocca, primo perché, come hai detto anche giustamente tu, questa è la prima banca europea, cioè stiamo parlando di uno scenario da Lehman Brothers, uno scenario che tirerà giù, lo abbiamo già visto dalla reazione oggi, stamattina in borsa delle banche italiane, esatto, tira giù l'intera Europa e mezzo mondo, quindi voglio dire, non c'è niente di cui gioire del fare. Secondo, cioè, secondo me una cosa anche filosofica, cioè Deutsche Bank è la prima e l'unica investment bank che può competere a livello mondiale con le grandi americane. Non lo so se è il caso di augurarsi che questa banca, che è l'unica che tiene testa alle grandi banche americane, che peraltro ormai sono in tutti gli affari maggiori europei, ma perché dobbiamo rinunciare, dobbiamo perdere questa banca? Se abbiamo ancora un po' di spirito europeista, noi in questo momento, al di là del fatto delle cose che ho scritto mille volte, cioè che Deutsche Bank ha sul gruppone, ma certo, scandali mostruosi, eccetera, io ho scritto davvero mille volte, però adesso vogliamo davvero augurarci che l'unica investment bank mondiale che ha però appunto basse bandiera europea fallisca. Non lo so, al di là dei contenziosi che sono stati tra Italia e Germania in questi mesi attorno appunto alla flessibilità, MPS, no, sono completamente d'accordo con te, sono poco completamente, questo non significa naturalmente che non bisogna fare una riflessione sugli LCR, perché, cioè sulle misure che riguardano la liquidità per queste banche che hanno questo particolare tipo di attività, però significa, cioè, non si può non vedere, Tonia, io sono convinto, l'hai appena detto anche tu, quindi ti vengo dietro, cioè se l'Europa dà uno schiaffo a Apple, come avete visto, cioè sto parlando ovviamente della pronunzia della Commissione sul fisco in Irlanda. Apple, come avete visto, fa una piega. Se il Dipartimento di Giustizia americano chiede 14 miliardi a Deutsche Bank, ecco che cosa sta avvenendo. Io starei un po' attento anche a questi squilibri e non li aggraverei. Cioè, io potenzialmente, invece di inscenare adesso una grande lotta e un grande litigio europeo intorno a Deutsche Bank, tenterei da parte delle autorità di essere più cooperativi che litigiosi. Intanto, grazie a Tonio Mastrobuoni per questa fotografia che ci ha fatto a questo momento, di quello che forse verrà, forse no, vedremo nel fine settimana. Un minuto di traffico e riprendiamo invece dal punto di vista del mercato, dopo che torniamo col traffico, a capire che cosa può avvenire con Gianluca Codagnone, Managing Director di Fidentiis. A tra un minuto. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. Vi presento. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta, un'infinità di domande da parte vostra, molto preoccupati, molto preoccupati più che convinti, e figuratevi, il problema è complesso. C'è Gianluca Codagnone, Managing Director di Fidentiis, come la vede? Buongiorno, ciao Oscar, buona serata a tutti. Da dove bisogna partire, Oscar? Nel senso bisogna che, partire dal fatto se gli hedge sono l'inizio di un fenomeno a catena, nel qual caso il problema può diventare rapidissimamente ingestibile, oppure no, secondo lei? Allora, diciamo che la situazione di Deutsche Bank è quella di una banca che ha un bilancio di 1,6 trilioni, con capitale per 67 miliardi, e poi finanziata da depositi e bond. E in questo momento, diciamo, il catalizzatore ultimo della situazione di stress che stiamo vedendo è la famosa multa che il Department of Justice americano vorrebbe fare a Deutsche per il mis-selling di prodotti cosiddetti RMBS in America per 14 miliardi, e c'è stata tutta una polemica se fossero troppi, pochi, eccetera, eccetera. Il problema, secondo me, più in generale è che dal 2008, da quando c'è stata, diciamo, la crisi di Lehman Brothers, le banche americane hanno fondamentalmente ridotto le loro dimensioni, hanno operato tutti i piani di emergenza possibili sulla resolution delle banche stesse, cioè mettendosi in una maniera tale per cui il loro bilancio può venire toccato per il 20%. Hanno le cosiddette bailinable liabilities, cioè si può fare, diciamo, ricorso al 20% delle passività di una banca per ricapitalizzarla, mentre le banche europee sono state molto più lente, non c'è stata riduzione del bilancio del settore creditizio europeo, che 33 trilioni di euro era e 33 trilioni di euro è rimasto, e le banche in Europa si è scelto di ricapitalizzare le banche invece che farle diventare un po' più piccole. Questo è il problema filosofico, diciamo così. Poi ogni banca ha reagito in maniera diversa, e ogni banca si è ricapitalizzata in maniera diversa, ogni banca fa attività diverse, c'è chi fa più prestiti, fa attività più tradizionale come prestiti alla clientela, come le banche italiane, e chi è coinvolto in più in attività di mercato come Deutsche. Quindi quello che dico è che è ovvio che una crisi di fiducia, e d'altronde la parola credito deriva dalla parola deriva la parola credere, che vuol dire avere fiducia. Una crisi di fiducia fa saltare ogni banca. E quindi va fermata. E di solito quello che è successo anche nel passato, per esempio con Northern Rock, la crisi di fiducia, se si avvita, la ferma solo lo Stato. E quindi la conclusione è, cari ascoltatori, non è una conclusione. La prima analisi è che il rischio esiste e noi lo monitoreremo e continueremo a commentarlo anche domani mattina a Conti la Belva dalle 10 alle 12. Intanto grazie ai nostri ospiti. Dalle 10 alle 12 parliamo del DEF, parliamo della crescita dei numeri italiani, ma parliamo anche, sì, delle banche e dei vostri costi per recuperare il fondo di risoluzione, ma parleremo anche delle pensioni, di quello che ieri hanno deciso governo e sindacati. A domani dalle 10 alle 12.